Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Per scriverci basta aggiungere un chiocciola a radio24.it e il gioco è fatto. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardi o Ladri, lo trovate sull'homepage del Sole 24 Ore. Allora, ieri a Roma è stato presentato alla presenza del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso il rapporto Ecomafia 2009, curato come ogni anno da Legambiente. I dati sono impressionanti, basti pensare che il fatturato delle ecomafie supera i 20,5 miliardi di euro all'anno. Si compie un reato ambientale ogni 3 ore circa in Italia e i clan che hanno messo le mani sul business dell'ecomafia sono almeno 258. Ma in realtà queste notizie qui le troverete su tutti i giornali. Questa mattina ne hanno parlato ieri i radiogiornali, ne hanno parlato i siti internet. Io rimango impressionato piuttosto dalle storie ed è per questo che ho chiamato a parlare con noi Michele Buonomo, che è il presidente di Legambiente Campania. Buongiorno Buonomo. Buongiorno, buongiorno. Allora, perché dico rimango impressionato dalle storie? E da qui vorrei partire per la nostra chiacchierata con Michele. Tutti voi ricorderete che alcuni mesi fa è stato ucciso drammaticamente un imprenditore che si chiamava Michele Orsi. Michele Orsi fu assassinato nel giugno del 2008 da un gruppo di fuoco che faceva capo a Giuseppe Setola, boss dei Casalesi. Si diceva che volesse collaborare con la giustizia. Bene, fatto sta che il fratello Sergio Orsi, ad un certo punto, vista la tragedia che ha colpito la sua famiglia, decide di parlare con la giustizia, decide di collaborare. Poi però si pente non di ciò che è stato fatto, ma si pente di aver parlato con la giustizia. Leggo testualmente le parole di Franco Roberti, che era capo fino a poche settimane fa della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Il fratello di Michele Orsi, Sergio Orsi, sceglie la via transattiva mafiosa e quindi in buona sostanza torna a delinquere, torna a fare affari con i rifiuti. Partiamo da questa cosa che è drammatica, cioè il vincolo camorristico è mille volte più forte del vincolo di sangue. Buonomo, com'è possibile? Per terribile che possa apparire, purtroppo spesso è così. È così e questo aggiunge orrore all'orrore. Questo personaggio che si è pentito, in effetti di essersi pentito, Evidentemente il vincolo, come lei diceva, di tipo mafioso è più forte dei vincoli di sangue e determina scelte così orribili, anche da verificare, insomma. Evidentemente però ci sta un peso da parte della criminalità che condiziona tutte le relazioni personali, le relazioni familiari, quelle nella società in cui si vive, che determina questo tipo di scelte, perché prevale appunto sul vincolo di parentela, sull'affetto verso un fratello, verso un figlio a volte. Assolutamente. Allora, leggendo il rapporto di Legambiente, purtroppo ormai ci siamo abituati ad un triste primato della Campania. Dal 1994 ad oggi, quindi ormai sono 15 anni, è in testa nella classifica delle illegalità ambientali, vuoi tra i rifiuti, nel ciclo dei rifiuti, vuoi nel ciclo del cemento. Allora, a me a volte viene uno sconforto, Buonomo, ma insomma tutto quello che fate voi come Legambiente, le altre associazioni ambientaliste, voi vi siete spesso costituiti parte civile, quello che facciamo noi come giornalisti nel denunciare, ma insomma Buonomo, cerchi di tirarmi un po' su lei perché sono abbastanza depresso da questo punto di vista, non serve proprio a niente. Guardi, io molto spesso quando parlo con le persone che mi dicono a cosa serve tutto questo, dico se non ci fossero le forze dell'ordine che incessantemente perseguono questo tipo di reati, se non ci fossero magistrati coraggiosi che in anni in anni in cui l'attenzione era molto, molto scarsa, si sono battuti mettendo a repentaglio magari carriere molto più tranquille, molto più veloci, per ostinarsi nella ricerca di questo tipo di reati. Bene, io credo che non possiamo assolutamente perdere la speranza, anche di fronte a cifre così impressionanti, a fenomeni così radicati, al fatto che mentre il paese soffre una crisi gravissima, il mondo soffre una crisi economica così dura, gli affari dell'ecomafia proliferano. Non possiamo perdere la speranza, perché questo abbasserebbe ulteriormente il livello di civismo, di partecipazione di un paese che invece dovrebbe fondare tutti i propri sforzi nella lotta alle ecomafie, alle mafie, perché le mafie sottraggono futuro, come ebbe a dire qualche anno fa un altro magistrato. Assolutamente d'accordo con lei, Bonomo. La speranza è il motore fondamentale dell'impegno. Ricordo che quest'estate stavo in vacanza al sud, in realtà, come spesso accade, vacanza che poi serve per riflettere e leggere, e lessi una drammatica intervista all'assessore regionale all'ambiente della regione Campania, seguita il giorno dopo da un'intervista ad un magistrato, mi pare di ricordare che fosse Marmo, con il compito di contrastare l'abusivismo edilizio, e loro dissero: l'una e l'altro, siamo impotenti di fronte all'abusivismo edilizio, facciamo pochissimi controlli perché non abbiamo persone, non perché non vogliamo. Allora io mi domando, va benissimo porre l'attenzione come ha fatto il governo sui rifiuti in Campania, resta poi da vedere nel lungo periodo quali effetti sortirà. Ma l'abusivismo edilizio, che nel rapporto di Legambiente Buonuomo ha una grandissima parte, continua, diciamo così, in maniera imperterrita in Campania, distruggendo l'ambiente, cioè la cosa più preziosa per il nostro territorio e segnatamente per la Campania. Allora, ma questi gridi d'allarme vengono lanciati, ma poi nessuno li raccoglie, fa più notizia cancellare i rifiuti dalle strade, probabilmente. Sì, guardi, questa è una sorta di sottoservizio, no? Nel senso, a volte i comuni preferiscono fare feste anziché aggiustare le condotte fognarie, perché non si vede quel tipo di lavoro. Mentre è necessario contrastare l'abusivismo edilizio, perché noi abbiamo tentato in questi anni, quando dico noi penso anche al suo lavoro, Galullo, abbiamo cercato di mettere in evidenza questa alleanza perniciosa tra i clan che gestiscono i rifiuti e quelli che invece perseguono gli obiettivi dell'abusivismo, i profitti dell'abusivismo. Molto spesso, anzi, gli stessi clan gestiscono i due settori. Insieme, il ciclo illegale dei rifiuti a volte termina in discariche abusive, in cave abusive, che sono il primo anello invece del ciclo illegale del cemento. E distruggere il territorio con l'abusivismo mette a repentaglio l'economia di quei posti, la salute, la vita molto spesso. Proprio oggi ricorre l'11° anniversario della frana di Sarno, e io penso a quanti meno morti ci sarebbero stati comunque se non ci fossero state costruzioni abusive in un'area, tra l'altro, come quella di Sarno, dell'agro nocerino sarnese, dove i clan hanno imperversato e continuano a farlo da anni. Consideri che in quell'area, noi oggi denunciamo attraverso il rapporto Ecomafia, si sono consumati migliaia e migliaia di abusi, e gli abbattimenti non raggiungono lo 0,5%. Il grido di dolore del procuratore Marmo, ricorda bene, era il procuratore Marmo, e di Walter Ganapini, assessore ambiente della regione Campania, si riferiva a questo. Purtroppo i magistrati, le forze dell'ordine lavorano incessantemente, pure con pochi mezzi, a contrastare questo fenomeno, ma poi lo Stato è assente. Assolutamente. Lo Stato che dovrebbe abbattere per dare un messaggio inequivocabile, dovrebbe intervenire sequestrando, confiscando, a volte poi invece non compie fino in fondo il proprio dovere in questo senso. Ecco, io intanto nel ringraziare Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania, invito i radioascoltatori a collegarsi se vogliono sul sito di Legambiente, che è legambiente.it, o sul sito del Sole 24 Ore, che è appunto il sole24ore.com. Noi abbiamo pubblicato l'intero rapporto di Legambiente e potete trovare anche degli approfondimenti non soltanto sulla Campania e su Sarno, che ora ci ricordava Buonomo, ma anche sulle altre regioni dove ormai la mano della criminalità organizzata imperversa, dalla Sicilia alla Lombardia. Ormai non c'è più terra che sfugga al controllo dei clan. Grazie a Michele Buonomo, dico grazie in regia Valeria Bernardi, in studio Laura Fagin e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.